se vengono la sera, oppure un'altra volta, quando noi non ci si dispera più. Sono solo dei pensieri che ritornano alla mente, che ritornano ogni volta insieme a te. Qui davanti ad un bicchiere, a una bottiglia vuota, sono solo dei momenti qui con te. I fantasmi dei ricordi, con l'ombra di mio padre, l'ombra di mio padre che non c'è. Poi una luce all'improvviso, il suono di una voce, io sono qua. Se non scordi non ci lasceremo mai, come quando da bambino ti davo la mia mano, io ci sarò. In te adulto io domani rivivrò. Ora è un'altra sera, è sicuro questa volta, ciò che pesa adesso se ne va. Il mio umore questa notte non è nero, alla fine poi si vedrà. Ciò che ho avuto non si è perso, è la vita che lo dice, e mio padre lo ritrovo qua. Ad ogni battito del cuore, nei momenti che respiro, lui è qui con me. Dai, non stare lì impalato, riempi quel bicchiere, beviamo un po', ricomincia la mia storia qui con te. Ciao Enrico, devo andare, non posso più restare, e tu lo sai, tu nel cuore ogni volta mi vedrai, nel tuo cuore ogni volta mi vedrai, tu nel cuore ogni volta mi vedrai.